a suo giudizio le imprese, visto che si parla delle mani delle mafie sulle imprese, hanno questo tipo di sensibilità? Nel nord-est, ma, ovviamente, stiamo parlando. Secondo me non ancora completamente. C'è anche una ragione che forse aiuta a spiegare questa, chiamiamola, disattenzione. Perché quando si parla mafia, eccetera, il pensiero tradizionalmente va sempre a quel tipo di mafia che noi abbiamo identificato con certe regioni del sud. Certo. Oppure con altre regioni, come gli Stati Uniti, che alla mafia siciliana erano in qualche maniera interessati. La verità è che non si tratta della mafia, quella mafia, ma di organizzazioni criminali, quindi particolarmente agguerrite, dotate soprattutto di mezzi tecnici e di mezzi finanziari enormi. Assolutamente, assolutamente d'accordo con lei. Quindi il pericolo è che si sottovaluti quelli che invece sono dei segnali da monitorare e da tenere sotto costante controllo. Del resto è difficile accorgersi, per chi non è esercitato ad avere certi occhi, sensibilità, accorgersi che c'è un certo capitale inquinato, si sta insinuando nell'economia legale per inquinarla a sua volta. Assolutamente. Il problema che cercavo di spiegare ai ragazzi di una scuola è semplicemente questo: guardate che il denaro che un imprenditore deve impiegare per far andare avanti la propria azienda gli costa. Il denaro invece che proviene dall'attività predatoria della criminalità non costa nulla, anzi certo, è tutto di guadagnato in qualunque sia anche l'eventuale perdita. Quindi è evidente che l'imprenditore onesto non potrebbe mai sostenere una concorrenza fatta di capitali disonesti.